Dunque, ho proprio riletto adesso alcune pagine del libro di Terzani, su Tiziano Terzani, di Gloria Germani, di cui abbiamo già parlato altre volte. Ecco, in particolare della rimozione del pensiero indiano nell'Occidente. Dunque, dice a pagina 183 che nel Settecento, quando cominciarono a costituirsi i grandi imperi coloniali, insieme ai mercanti e ai soldati andarono i missionari cristiani, e lo scopo loro era quello di portare, insomma, di portare in India la dottrina cristiana, no? Questi missionari, erano qua anche persone colte come i gesuiti, furono i primi a studiare davvero la lingua dei popoli e anche la loro cultura. E quindi cominciarono a tradurre le loro opere come. Appunto, come le grandi opere del pensiero indiano, come la Bhagavad Gita, ecco, insomma, e così via. E quando queste opere arrivarono in Occidente, ci furono degli studiosi che rimasero strabiliati della profondità del pensiero indiano. E eravamo nel periodo illuminista, e questi studiosi, molti dei quali illuministi, scoprirono nel pensiero indiano proprio quello che cercavano. Cioè, in pratica, cercavano, avendo una insofferenza nei confronti della soggezione religiosa e teologica dell'Occidente, cercavano un tipo di pensiero che rivelasse una saggezza di tipo universale, no? Pensa che lo stesso Voltaire indicava la Cina e l'India come la culla della civilizzazione universale, basata sulla ragione universale. Per i primi illuministi, il pensiero cinese rappresentava quell'orientamento etico privo di considerazioni ultraterrene che loro stessi appunto perseguivano. Leibniz auspicò persino che i cinesi mandassero dei missionari in Europa. Insomma, la cosa fu determinante è che il pensiero orientale cominciò ad arrivare in Occidente, e qui c'è da distinguere tra la cultura anglosassone e francese, che le prese in considerazione, ma non lo approfondì più di tanto, per una ragione politica che adesso dirò. E mentre i tedeschi cominciarono invece a studiarlo e a trovare la saggezza che appunto andavano cercando. Perché furono i tedeschi? Perché i tedeschi non erano impegnati in imprese coloniali, mentre i francesi e gli inglesi sì. E quindi per loro era importante continuare a sostenere la superiorità della civiltà occidentale. Schlegel, ad esempio, nel suo testo sulla lingua e saggezza degli indiani, porta avanti la tesi filosofica del potere creativo dell'Oriente indiano, che sarà l'unico che potrà consentire all'Occidente moderno di produrre qualche forma di convivenza e saggezza. Ecco. A questo punto interviene Hegel. Prima Schopenhauer, che sappiamo che Schopenhauer è stato il filosofo occidentale che forse di più è stato influenzato dal pensiero indiano, è considerato appunto il pensiero indiano e il pensiero buddista sostanzialmente coincidente col suo. Cosa succede? Che mentre Hegel insegnava a Berlino, nell'aula accanto, in un'aula gremita di studenti, mentre Schopenhauer insegnava a Berlino, Hegel insegnava nella stanza accanto, in un'aula gremita di studenti. E cosa diceva Hegel? Guarda bene. Hegel è proprio assolutamente tassativo, dice: in India non c'è, né c'è mai stata filosofia. Quindi, come dire, il pensiero indiano non esiste. Perché dice questo? Perché per Hegel la filosofia e la conoscenza può esistere soltanto se c'è la separazione io-mondo. Siccome gli indiani, il nucleo del pensiero indiano è che l'io partecipa al mondo e che la natura e lo spirito sono la stessa cosa, sono uniti, per Hegel, con questa precisazione, dice: no, non esiste filosofia. E quel pensiero di Hegel si stava imponendo al mondo occidentale, e la sua importanza pratica e la sua influenza fu enorme. Pensa, il marxismo nasce sul filone di Hegel, e quindi poi le rivoluzioni marxiste, ma anche addirittura lo sviluppo delle scienze sociali con Max Weber. Il nucleo del pensiero di Hegel è questo. Dice, come ho detto prima, ripeto, in India, in Oriente in generale, la cultura è non dualista, cioè è Advaita, come si dice. Conseguentemente il soggetto non separato dal mondo non è un vero e proprio soggetto, non è un vero e proprio individuo. E come tale non può conoscere il mondo. Ma dice di più, l'individualità in Oriente non esiste come persona, ma si annichila e scompare nella natura. Ma affinché lo spirito sia libero, occorre che sia separato dalla dimensione naturale, cioè sia un io indipendente e separato. Solo dopo che è stata stabilita la separazione del soggetto, va bene, dell'io dalla natura, può darsi la vera conoscenza. Solo allora le idee generate dal soggetto equivarranno all'essenza della realtà. Questo tema è di enorme importanza, perché le premesse hegeliane si sono stratificate ormai a livello inconscio, a livello così profondo, come pregiudizi di cui si è persa ogni ragione e consapevolezza. E questo ha influenzato tutta la nostra cultura. I rivoluzionari come Lenin o Mao, convinti da queste idee, hanno ritenuto di poter usare tutta la violenza necessaria perché è legittimo. Era nel giusto. Ecco, quindi Terzani vede con chiarezza, attraverso i suoi viaggi e vedendo le conseguenze di questo tipo di pensiero, potendo frequentare a fondo sia il pensiero asiatico che il pensiero occidentale, può vedere come questa grande separazione, questa scissione che c'è stata a quell'epoca, abbia poi prodotto le conseguenze della civiltà di oggi e la prepotenza dell'Occidente che è su tutto il mondo. È fatta l'inizio della catastrofe a cui rischiamo di andare incontro.